modo di guardare alla scrittura e di scrivere. Mi piace di più scrivere, adesso lo faccio con più piacere e soprattutto lo faccio pensando poi che possa diventare materia di insegnamento. E come vi dicevo, per tornare a bomba, circa una decina d'anni, da solo o con l'aiuto di Gianluca, tengo dei corsi di scrittura. Delle volte insegniamo semplicemente i parametri della scrittura editoriale, cioè come si scrive in vista di una pubblicazione. Questo in realtà può avere anche in vista della pubblicazione di una tesi, di laurea, di un saggio, quindi non necessariamente con narrativa. Altre volte invece insegniamo proprio tecniche della narrazione. Ecco, il manuale che abbiamo pubblicato qualche mese fa, questa è la prima presentazione qui a Bolzano, è un manuale di scrittura che insegna le tecniche di base e quelle più avanzate per narrare storie brevi come romanzi, o persino trilogie, o persino saghe, come si chiamavano i tempi. Dopo qualche anno che lo abbiamo fatto, ci siamo accorti che accumulavamo appunti. Si facevano corsi di scrittura e poi si lasciavano a fine corso degli appunti, i cosiddetti disperati. Abbiamo insegnato all'università popolare, abbiamo insegnato nelle biblioteche civiche, abbiamo insegnato nelle scuole, abbiamo insegnato nelle librerie, abbiamo insegnato a volte anche per strada, cioè per tanti qualche fila, insegnare per strada. Comunque l'università della strada. C'è anche l'università della strada, è vero. Quindi insomma, abbiamo insegnato un po' a tutti, ho insegnato nelle aziende, mi hanno chiamato per un corso di formazione per dei manager per insegnare loro lo storytelling, quello che si chiama appunto realtà marketing, che consiste nel saper vendere il prodotto attraverso una storia. Lo faccio ancora ogni tanto quando mi chiamano l'associazione di tecnologia. Quindi insomma, dopo tutti questi anni di insegnamento ci siamo andati con una mole di appunti e abbiamo deciso di sistemare, sfoltire un po' le parti più come posso dire, discorsive e andare all'essenza della questione, al nocciolo della questione, ossia come si racconta una storia, come si racconta bene una storia, come si racconta, giusto? Allora, ci siamo accorti che non si deve dare mai nulla per scontato. E infatti siamo partiti dalle prime osservazioni che ci venivano fatte quando cominciavamo a insegnare, tanto da ragazzini quanto da persone adulte. Quando dici che fai lo scrittore, fai l'edito, quindi ti occupi di scrittura, e dici che riesci anche a camparci, ti guardano strano, soprattutto se stai chiedendo un prestito, se sei un agente di tratto, è difficile registrarsi come, fiscalmente come scrittore. Morozzi, il mio collega, c'è riuscito, sulla sua carta d'identità c'è scritto scrittore, io non ce l'ho fatta, figuro come insegnante, ma la cosa incredibile, avendo una partita di gioco, ho dovuto registrare l'agenzia delle entrate per quello che faccio come altro formatore, altro, non si sa come è una cosa scontata per molti, ma non per chi scrive, è la semplice domanda: posso io scrivere? Ce la faccio io a scrivere? E di solito le obiezioni con cui diciamo che autocensuri sono del tipo: mi piacerebbe scrivere ma non ho tempo, mi piacerebbe scrivere ma sono troppo vecchio o sono troppo piccolo, mi piacerebbe scrivere ma non si guadagna abbastanza, non lo so, ci sono tutta una serie di ma. Ecco, proprio nelle prime primissime pagine del manuale io e Gianluca abbiamo pensato di raccogliere questi ma e di cominciare uno a uno, cestinare, smontare, sono di falsi miti. Mi piacerebbe scrivere ma non ho tempo. Però citiamo un esempio più classico, un nostro amico scrittore, abbastanza famoso, si chiama Paolo Nori, autore di una certa importanza, italiano, emiliano come noi, si è scritto il suo primo libro, Le cose non sono le cose, chiuso nello sgabuzzino di casa la sera dopo 8 ore di magazzino, lui faceva il magazziniere in origine. Scriveva la sera dopo aver messo la figlia, quindi litigato con la moglie, immagino, scriveva dentro nello sgabuzzino per 45-50 minuti tutte le sere, lunedì a venerdì scriveva. In realtà poi lui è un folle, amava anche tradurre, come me amava tradurre, traduceva i russi, Dostoevskij, Lescov, Tolstoj, così per passione. magari diceva una paginetta tutte le sere riesco a farla. Se tu fai una paginetta tutte le sere, da lunedì a venerdì, a fine mese comunque hai già 20 pagine, a fine anno non mangi. È questione di costanza. Quindi, poi magari all'inizio, in 45-50 minuti, fai solo una paginetta quando ti sei scaldato, un po' come quando vai in palestra, se no dopo 6 mesi fini su certi pesi. Stessa cosa con la struttura, magari mi scrivi 30 pagine in 45-50 minuti. L'importante è la costanza. Però quello è già un problema, non so, il tempo non è un, non chiede, è una scusa, come si dice spesso. Sono, mi piacerebbe scrivere, ma sono troppo vecchio. Però io lì diciamo solo un nome, ok? Camilleri, basta di Camilleri e taci, perché Camilleri ha pubblicato il suo primo romanzo, famoso già come un intervallo protagonista, che aveva 79 anni. E se no, per i giovani, cito Christopher Paolini, l'autore di Eragon, una saga fantasy che ha venuto tanto, piaciuto tanto ai ragazzi qualche anno fa, aveva 15 anni quando ha pubblicato Eragon. 15. E dopo un anno circa c'erano 5 milioni di copie di Eragon che giravano per il mondo. Contestualmente, citando Camilleri e Paolini, puoi anche accantonare la questione che non si vive, non ci si guadagna. Certo, se ce la fai, guadagni anche tanto. Puoi diventare una superstar della letteratura, guadagnare milioni di dollari, milioni di euro. I casi sono ormai famosi e tanti. Ma non è detto che si debba arrivare a quei livelli. Poi non sono necessariamente livelli di prova, sono livelli di successo. Però insomma, puoi tranquillamente scrivere e viverci. Perché? Perché quest'altra cosa che scriviamo, sono le prime cose che scriviamo nelle prime pagine. Quando scrivi e pubblichi seriamente, cioè pubblichi con un editore serio, tanto per cominciare non devi pagarlo, ti pagano lì. Okay? In un'epoca in cui è facilissimo pubblicarsi, tutti i siti di self-publishing che vi danno norme editoriali dicono potete pubblicarmi il libro a vostre spese, print on demand, cioè spendi per il tot perché vuoi 15 copie del tuo libro. Ti diamo un codice, ISBN e sei a posto, il tuo libro è pronto. Quello non è un libro, mancano almeno due cose fondamentali, la redazione del libro, cioè non c'è dietro un lavoro che filtra, che pulisce la tua scrittura, e manca la distribuzione, quel libro non sarà distribuito nelle librerie, nei negozi, sulle piattaforme digitali. Quindi puoi provare a scrivere e vendere mettendoti in contatto con un editore che crede in te e ti mette sotto contratto e ti garantisce una percentuale sulle copie vendute. In media un editore in Italia, in media, garantisce la copia venduta un 8-10% sul prezzo di copertina, IVA inclusa. Se comincia a vendere qualche migliaio di copie a fine anno, può cominciare a vivere, oppure come ha fatto un mio amico scrittore indiano, anche lui si chiama Massimo Vitali, lui faceva, lavorava all'ufficio reclami della Volvo. Ha scritto un romanzo meraviglioso che si chiama Se sono rose, dove si vede molto l'esperienza dell'ufficio reclami, secondo me, e se volete poi vi racconto una storia meravigliosa. Comunque si è messo, dopo aver scritto Se sono rose, che ha avuto la fortuna di essere pubblicato con un contributo nel Comune di Roma, perché alcuni estratti di questo romanzo giravano per la metropolitana, da una fermata all'altra, e c'è stata l'introduzione di Bergonzoni contro Bolognese. Quindi ha venduto. E Massimo Vitali adesso fa part-time, almeno non sta 8-10 ore all'ufficio del carico di lavoro, ma ne fa solo 4-5, e per il resto della giornata fa quello che gli piace. Ecco, non tira su 1 milione di euro al mese, almeno all'anno, però. Però fa quello che piace. Comincia a fare quello che piace. Già, questo è un cambio. È una vittoria. Un obiettivo, no? E la scrittura può diventare anche un mestiere e ci si può vivere. E questa è un'altra cosa che cerchiamo di insegnare. Ma proprio le primissime pagine anche del manuale lo scriviamo. Quindi, falsi miti, non ho tempo, non ci si guadagna, non ho l'età, via. C'è un vero problema, forse. Non so di cosa scrivere. Questa forse è l'unica vera obiezione che ricorre spesso. E quindi bisogna effettivamente cominciare a tirare fuori le idee. E da editori, scrittori quali siamo, ci siamo accorti. Al contrario, come imparassi la scelta. Anche, perché no? Ora, una cosa che ho visto che fa molta confusione nella testa della gente è pensare per generi. Magari amo leggere gialli e quindi dico, ne ho letti così tanti, vorrei scrivere un giallo. Ora, i migliori gialli, quelli che hanno fatto scuola, che hanno iniziato il genere, non sono mai nati per l'idea di fondare un genere. io sono convinto che Conan Doyle non sapesse con il personaggio di Sherlock Holmes di creare il romanzo di investigazione, non ne aveva assolutamente idea. È partito da secondo me da un'altra idea, ne sono convinto, e questa idea insieme ad altre sono quelle che secondo me animano lo scrittore quando comincia. È un po' un salto nel buio, però cominci con un'idea. Abbiamo cercato di catalogare anche queste idee, che di solito passano per la testa degli scrittori, ne conosciamo alcuni, li abbiamo pubblicati. Il mestiere dell'editor è anche quello di tanto di risolvere i problemi allo scrittore. Lo scrittore arriva in pantalato a metà romanzo e non sa come andare avanti. E si rivolge a un editor chiedendogli cosa potrei fare a questo punto, cosa mi suggerisce. Ecco, allora, un'idea che ho ritrovato spesso tra gli scrittori esordienti, la prima che consigliamo per cominciare a scrivere, è quella di guardare dentro, la chiamiamo così, semplicemente, a che fare un po' con la memorialistica. In realtà con tutte quelle forme di scrittura dove a parlare è un io. Occhio però, non è detto che sia l'io vero, concreto, anzi quasi mai, un io vero in letteratura esiste poco. Affidi a quell'io, a quella voce, il tuo racconto. Questo si può dire. Vabbè, allora raccontare le cose in prima persona e guardare dentro, parlare di sé, di quello che si fa nella vita, è il modo più semplice. Tanto per cominciare non potrei dire che non sai cosa scrivere. Ma conosci la tua vita, sai cosa ti passa per la testa? Bene, allora sai cosa scrivere. Uno potrebbe dire, sì, può diventare un libro, cioè può a quel punto quello che ho scritto essere interessante per il pubblico. Chi può interessarsi alla mia vita? Immaginiamo che io sia un ragazzino di 17-18 anni, un po' sfigato, che vive in una periferia di una città britannica. Le mie passioni sono i vinili, le rock, le pomiciate dei giardini e le partite del Manchester. Hai abbastanza materia e poco materiale per raccontare. Beh, un signore che si chiama Nick Corby ha pubblicato il suo primo romanzo nel 94, quindi qualche anno fa. Il romanzo si chiama Epide di Alta Fedeltà e parla esattamente di questo per 300 pagine. Racconta la sua vita da 15 ai 30 anni e si sofferma su episodi assolutamente banali, appunto il primo bacio nel parco con una ragazzina, la partita più brutta che abbiamo giocato a Manchester in quegli anni, i migliori dischi di rock che lui ha ascoltato. Però ha un'idea semplice che magari darebbe a chiunque di voi, e magari chiunque di noi lo fa non appena ha una passione. Classifica 5 migliori album della storia del rock britannico, le 5 migliori partite del Manchester, le 5 migliori ragazze della mia vita. Procede per cinquine, ricordi, e procedendo per cinquine, stabilendo una classifica, scompone la sua vita e te la racconta in questo modo a scegliere, senza seguire un ordine cronologico, non necessariamente dei 15 anni ai 30 anni, però andando avanti in questa maniera te la racconta, ha trovato uno stile, ha trovato un'idea, bastate solo questo. Allora, in più quando si guarda dentro trovare uno stile per non risultare troppo autobiografici, ma altrimenti se hai una vita figa e avventurosa, racconta pure in prima persona. Delle volte abbiamo persone accanto che hanno avuto una vita avventurosa, magari un po' più anziane di noi. Allora basta chiedergliela. A questo punto non guardo più dentro, ma guardo fuori. Questo è il secondo metodo che insegniamo. Se guardo fuori, comincio a parlare con una persona cara, che conosco bene, che può essere mia sorella, mia nonna, mia moglie, il mio migliore amico, il compagno di squadra. E mi accorgo che ha una vita fatta di piccole e grandi avventure. Gliela faccio raccontare, a questo punto potrei avere in mano il materiale per un romanzo. Sempre il mio amico Paolo Noli, quello di Magazziniere, perché qui ci viene Genica, il suo primo romanzo si chiama Le cose non sono, Le cose racconta la vita di sua nonna Carmela, con un incipit meraviglioso, uno dei migliori incipit della letteratura italiana. Lui ne ha azzeccati due o tre. Quello di Le cose non sono, Le cose, il titolo quanto strano, se ci pensate, è Mia nonna Carmela si chiamava Carmela. Qualche esempio dice, lo so, Carmela non è un nome molto diffuso nella mia regione, ma si vede che i suoi erano a corto di nomi. E inizia a dire cosa non sono le cose. Tu leggi un incipit del genere e dici, questo ci fa uccidere. Ma il secondo romanzo che si chiama Passo tu baroncelli di Paolo Noi comincia con questa famosa affermazione: io sono quello che non ce la faccio. C'è qualcosa di un po'. Io sono quello che non ce la fa. io sono quello che non ce la può fare, che non ce la farete, ma non funziona in italiano, io sono quello che non ce la faccio. È un evidente errore di grammatica. E l'italiano di noi è pieno di errori di grammatica, se vogliamo chiamarlo così. Ma è il suo idioma. Io per idioma intendo proprio la lingua standard che si cava inevitabilmente in ciascuno di noi e poi comincia a diventare una lingua personale. Ecco, l'idioma è una lingua personalizzata. E Paolo Nori ha trovato un modo di personalizzare i suoi racconti, di sicuro attraverso una scrittura che io trovo brillante, geniale per certi versi. Ma poi ha trovato, più delle volte, metodi estremamente semplici da tutti a raccontare, parlando di sé, guardando dentro oppure guardando fuori, raccontando la vita di sua mamma Carmela. Se poi mi legge lui, perché io l'ho conosciuto alla radio con Rai 3, sì. E era di una simpatia coltivata. Ah, poi mi legge Paolo, cosa dopo è venuto qua l'anno scorso, due anni fa, vero? Sì. È venuto qua a presentare un libro e la simpatia era assolutamente di nuovo. Lui tiene un corso qui assistito che si chiama Corso di scrittura elementare, e poi è passato adesso corso di scrittura media superiore, quindi sta facendo tutto il corso interscolastico e è veramente bravo, sia come insegnante sia come scrittore, mi piace. Forse c'è un altro modo, se ci pensiamo bene, il metodo, chiamatelo come vi pare, per scrivere, per cominciare a scrivere. Questi sono tutti i suggerimenti che vediamo nelle prime pagine per affrontare quel nemico infame che è la pagina bianca, d'accordo? Con lo schermo bianco. E quello adottato da uno degli scrittori, secondo noi, più bravi al mondo. Di nome fa Stephen King, di nome fatto King. Ok? Stephen King comincia sempre i suoi romanzi, il 90% dei suoi romanzi, con questo metodo. Prendiamo una persona, mettiamola in una situazione banalissima, semplicissima, normalissima in apparenza, e poi cominciamo piano piano a complicare le cose a questa persona, perché va uno storico. Io sono una mamma, ho un bambino in fascia, è la vigilia di Natale, vivo nel Maine, vado a trovare i miei, sono una mamma single e quindi parto. In tutto ciò non c'è nulla di strano. Il primo ciò che ho caricato dentro in macchina e parto. Negli Stati Uniti ci sono strade da percorrere in mezzo ai boschi dove non trovo un'anima neanche morire. Per cui inverno al 24 di dicembre arriva una tormenta di neve. I blocchi. Siamo ancora negli anni in cui non esiste il cellulare. E quindi cosa fai? Aspetti che passi il soccorso stradale, che venga qualcuno con uno spazzaneve. Ma piove tempo, nevica tanto. Perdete tanto, e rimane a un certo punto bloccata di un metro e mezzo di neve, nel giro di pochi minuti, è un tormento, di quelle che ci sono solo nei boschi del Nord America. E poi dici, vabbè, aspetterò, certo, non è la una delle mie situazioni, tuo figlio è piccolino, non sai come raggiungere i tuoi, come risali i tuoi, un po' male ti prende. E poi vedi arrivare qualcosa dal bosco, su quattro zampe, che pensi, forse un cane. E ci prendi anche un cane. Quel cane si avvicina e ti accorgi però che tutto intorno alla bocca è pieno di schiuma di sangue. E ti accorgi con San Bernardo sugli 80-85 kg, quelli belli piazzati. E questo cosa fa? Comincia a caricare la macchina di peso e a rinviare tutti i suoi finestrini e chiudi dentro. E sei a pagina 20 del romanzo che si chiama Cuscio. A questo punto la domanda è: cosa fareste? E si mette in ragione sempre così. Questo metodo che lui nel suo libro Open Writing, no? Sulla scrittura, dove spiega un po' la sua tecnica, ha chiamato OTIF, che non vuol dire niente, il prodotto determinato OTIF vuol dire cosa se, ma invece il tradotto meglio sarebbe cosa succederebbe se. Ecco, cosa succederebbe se ti trovassi di fronte agli altri chiusi in una macchina, con un metro e mezzo di neve intorno e un San Bernardo rabbioso che ti vuole sbranare? E il bimbo, come ne esci? E tutti i suoi romanzi, bene o male, partono dal motif. E lui ti dice, peraltro, l'ha detto più in un'intervista, che non sa mai come va a finire. Lui non programma quasi mai i suoi romanzi. Prova a immedesimarsi in quella situazione. È una immedesimazione. E qui è normale allora che piano piano ti allontani dal tuo vissuto e ti allontani dal tuo io. Stai cominciando a diventare uno scrittore un po' più scrittore, secondo me. Quando cominci a usare il motif, le cose vanno bene. Poi addirittura arriva una variante interessante, che è quella che usano quasi sempre tutti gli scrittori di fantascienza, che non sanno di scrivere fantascienza, usano semplicemente un motivo diverso, che è un motivo al passato. Cosa sarebbe successo se Hitler avesse vinto la seconda guerra mondiale? Svastica sul sole, Fitti, uno dei migliori romanzi di fantascienza distopica degli anni 50. Io sono convinto che Fitti non avesse niente di scrivere un romanzo di fantascienza, arrogantemente, di scrivere una storia alternativa, partendo da un motivo. Cosa sarebbe successo se? Un motivo al passato. Noi nel manuale lo chiamiamo Sliding Doors, perché mettiamo un film semplicissimo, anche carino, la commedia con Will Butler degli anni 90, dove si vede l'impiegata che in un caso riesce a prendere il treno perché le porte restano aperte per l'istante e le permette di entrare, nell'altro caso lo perde. Prendendolo, insomma, arriva a casa in tempo e trova il suo ragazzo è andato con un altro e la vita va in modo. Il film originale, perché ti fa vedere tutte e due le possibilità, come cioè il destino si dipana, si biforca in questa maniera strana. Perché la carriera invece la vita va avanti e non si accorge del tradimento. Ecco, questo è lo slide indosso, un motivo al passato. Vedete che piano piano, parlando di alcuni metri che secondo noi c'erano per la testa degli scrittori, un po' perché lo siamo, un po' perché li frequentiamo, ci siamo convinti che non sia logico, anzi sia quasi logico, cominciare a parlare subito di genere. I generi vengono dopo. Tu prima parti con un'idea buona, che secondo te narrativamente può essere sviluppata, e poi vedi se sarà fantascienza, fantasy o quello che ti pare. A questo punto sono anche stati distrutti alcuni miti, quello del devi scrivere solo di ciò che conosci. Anche lì faccio solo un nome e questa cosa si smonta, Salgari. Salgari ha scritto tutta la sua saga sui pirati dei Caraibi senza essere mai stato pirata. E è malese, è giusto. Va bene, qua c'è un altro metodo che è quello più difficile, forse dove rischi di mettere a studiare, che si chiama Trotak, l'abbiamo chiamato così, che significa mettersi lì, di sana pianta, con tanta pazienza, a leggere un fatto di crunch, di quelli grossi, avvenuti circa anni fa, un secolo fa, due secoli fa. Cronaca nera, cronaca rossa, non importa, fatto di cronaca. Gli accorgimenti dei fatti più grandi, quelli più discussi, sono pieni di lacune, pieni di buchi. E così possono nascere storie vincenti, anche film vincenti. A questo punto per storie si intende tutto in forma di narrazione, anche quella cinematografica. Pensate alla storia di Kasparov, questo ragazzino che compare nel 1830 alla piazza di Norimberga, un sedicenne forse, almeno così da tardi, la sua età, con un grande vestito addosso, in grado di dire solo il suo nome, Kasparov, si è diventato. Da dove veniva, chi era, cosa gli era successo. È stato il primo caso irrisolto di un ragazzino che probabilmente aveva subito una incredibile quantità di violenza in infanzia. Ne ha tratto un film Werner Herzog, ne ha scritto qualcosa, c'è una sceneggiatura anche nella testa di Truffaut. Hanno scritto 20.000 articoli su questa cosa. Allora, se una voglia si mette a studiare un caso come quello di Kasparov, il bambino d'Europa, l'infante d'Europa così chiamato, che basta che andare solo su Wikipedia e cominciano a saltare fuori le fonti, se li studia e prova a immaginare di raccontare la vita di Kasparov, quello che nessuno è riuscito a raccontare, perché poi si è solo inventato. Cioè, ci sono un sacco di storie che non aspettano altro che essere raccontate, basta andare a cercare una cronaca. Beh, questi sono i 5 metodi più uno per quelli che consigliamo all'inizio del manuale. Ho detto più uno, perché in realtà ci sarebbe anche un sesto metodo. L'abbiamo messo proprio come più uno perché quello non può essere insegnato, ed è l'ispirazione. Ora, quasi tutti i manuali di un tempo lo usavano, cioè insistevano, usavano questa parola, usavano questo termine, ispirazione, ispirazione, ispirazione, ti davano anche tecniche sempre più colorite su come alimentare la tua ispirazione, fare la meditazione, fare il treno autogeno, passeggiare all'aria aperta, sono tutte cose anche giuste e vere, però di fatto l'ispirazione non si può insegnare, è personalissima, è un'idea, è un dono che casca dall'alto o che viene dal basso, secondo il punto di vista. L'unica cosa che diciamo e che consigliamo è quella di avere sempre un foglietto, anche uno scontrino della spesa, segnarla sul momento, perché perderla è un peccato mortale. È un'idea, è su quella ci può costruire un romanzo. Una grandissima canzone, insomma. Yesterday dice Paul McCartney di averla sognata. Il testo, la strofa principale di Yesterday dice Paul McCartney di aver sognato, di essersi svegliato e di aver avuto in testa la scrive subito. Può succedere anche questo. Ecco, allora, come vi dicevo, il manuale un po' ha questo spirito di partire proprio dalla vicenda, partire dalle cose più scontate, quelle che nessuno ha mai veramente coraggio di mettere, non so che cosa scrivere, e cominciare piano piano a suggerire. Suggerire cosa significa per noi, visto che veniamo da tante esperienze di corsi, dare consigli pratici, a volte dare esempi, riportiamo stralci di giornale, brani, articoli, pezzi di racconto, di romanzi, di teatro, oppure proporre degli esempi, degli esercizi. Ogni paragrafo del manuale termina con un esercizio. Il primo esercizio che vediamo da fare può sembrare strano, è quello di copiare. Di solito a scuola ti dicono quello che si fa. A scuola ti dicono tante cose. E molte di queste, se riguarda la scrittura editoriale, non sto parlando di italiano, parlo di scrittura editoriale, sono sbagliate. Perché il caso più famoso è Dante, copiato tutto il codice. Così dicono? No, adesso lo ammettono anche i dantiani italiani, studioni italiani. Ha copiato molte cose da altre fonti. Cioè. Sì, da canti delle culture che hanno preceduto quel periodo. Però danno atto che lui era a conoscenza della letteratura che l'ha preceduto, quindi era comunque. Esatto. Sapeva cosa scrivere. Noi ci siamo sentiti aiutati in imbarazzo. Perché, come autori di questo manuale, perché ci sentivamo in dovere di dare questi consigli piuttosto bassi, posso dire, questi tutti i soldi del mestiere, copia, ma come copia? Se copia è plagio, mica vero. Allora, se io prendo un pezzo di Stephen King, lo copio paro paro, lo pubblico nel mio romanzo e faccio finta di niente, quello è plagio. Non ho dubbio. Ma ci sono vari modi per copiare qualcosa. Esiste solo questo. Questo è plagiare e lo sconsiglio, perché comporta qualche penalità. Proprio quando abbiamo pensato già solo a questo, che è uno dei primi esercizi che facciamo fare, copiare un autore, abbiamo sentito il bisogno di inventarci un alter ego, che non fossimo io e Gianluca, e che si prendesse carico di questo compito infame, intanto, cioè dare i soldi. Allora abbiamo inventato un personaggio, un tutorial, un corso di scrittura, come qualsiasi corso che si rispetta deve avere un tutorial. E c'è ovviamente un nano dall'aspetto poco rassicurante, un po' beffardo, a cui abbiamo affidato effettivamente i soldi di trucchi dell'estero. Ogni capitolo, ogni sezione del manuale termina con i soldi di trucchi detti dal nano. Il nano cambia voce, quello ha scritto tutto in forma personale, il nano invece usa il proprio io che si rivolge al lettore di una abbastanza diretta e scudorata. È un tutorial. E questo nano vi consiglierà, per esempio, alla fine del primo capitolo di copiare. Ecco quello che noi ci sentivamo di consigliare, lui lo può fare. Come si copia? Primo esercizio che abbiamo da fare, prendi la pagina di un libro che è a lui. Anche gli incipit, non so, gli incipit di Cent'anni di solitudine di Marquez, gli incipit di La storia per Capone, per me la copia. Ma la posso copiare a questo punto con la penna sul foglio bianco, oppure al computer, meglio al computer, poi vi dirò perché. La copi proprio così com'è, non cambi niente, non è la libro. E voi direte a che serve? Serve già tanto. È come dire, sto vedendo qualcuno che è da bianco sulla parete. Finché lo vedo fare, è facilissimo. Faccio qua. Vedo con una pendenza a fare così. Non appena che la pendenza la prendo in mano, comincio a dare il bianco, mi accorgo che ci sono un sacco di cose in apparenza semplici e non appena mi trovo a farle diventano difficilissime. Per esempio, la punteggiatura. Per esempio, il bandana a capo. Avere una pagina che si presenta come un blocco granitico di scrittura ininterrotta. Ecco, per esempio, copiare una pagina di Stephen King di Marquez ti aiuta a entrare un po' in quella cosa che è il ritmo della scrittura, lo chiamiamo banalmente così. Marquez ha un ritmo, cambia nei romanzi, Marquez è capace anche di scrivere tutto ininterrottamente senza usare punti e virgola, ma fa proprio questo, come tanti altri autori. ha un modo di andare a capo stranissimo. Stephen King, che sembra facile, semplice, ha uno stile difficilissimo, soprattutto nei dialoghi. E per scrivere dentro questo caso di meteoritmo. A questo punto anche leggere ad alta voce quello che ho copiato, posso dire. Ti accorgerai proprio con le virgole, quei punti di virgola, quei punti. Carver scrive frasi sempre molto semplici, secche, poi va a capo. Il dialogo di Carver è una cosa che dopo un po' mette l'ansia, ma è l'effetto che vuole ottenere. Ciao, disse lui, ciao, disse lei. Disse, e ripete all'infinito. A scuola ci ha detto che non si fa. Devi dire, la prima volta disse, ma lui a questo punto risponde. E la terza volta è un po' di un modo dire, dovrà sussurrare. La quarta dovrà bofeggiare, la quinta assicurare, la sesta ingiungere, e poi non so ancora cos'altro. Tutto tranne di dire. Sbagliatissimo. Molti romanzini americani continuano a usare il verbo dire. Lo ripeto, Carver è uno di quelli. E fa parte della sua marca stilistica. Dopo un po', quando lo leggi, entri un po' nel suo ritmo. Quando lo copi letteralmente sulla pagina o sullo schermo del tuo computer, ti accorgi di essere entrato un po' dentro il suo stile. Se è quello che ti piace, ti sei un po' scaldato. Poi cosa fai? Prendi la pagina di un autore che ti piace, ma che non è il tuo idolo. Bene, lo prendi e provi a cambiare qualcosa. Stai cambiando, ma stai cambiando qualcosa. Cambi il tempo dei verbi, cambi i pronomi. Pensi che funzionerebbe meglio se raccontare le cose fossero da lei anziché da lui. Cambi gli accapi, cambi gli avverbi, gli aggettivi, cambi qualcosina. Poi prendi la pagina del libro che ti ha fatto schifo, che hai lasciato lì. E nel copiarla ti vendichi. Metti tutto quello che avresti voluto leggere. Ma i passi che dovete fare sono questi, quelli che vi ho consigliato. Si copia tutto quello che mi piace, poi passo a quello che non mi piace, quindi fai pazienza. Fai quello che mi piace e fai quello che non mi piace. E la progressione ovviamente è proporzionale alla progressione con cui io intervengo. È inversamente proporzionale al rapporto tra il piacere e l'intervento. Più mi piace meno intervengo, meno mi piace più intervengo. Se fate questa cosa vi accorgete piano piano che è un esercizio di riscaldamento. Ecco, questo secondo me è l'unico sensato esercizio di riscaldamento prima di mettersi a scrivere. Dopodiché provate a adottare uno dei metodi. E quando siete nel panico, perché i testi sono, Gianluca Raul ha detto un sacco di cose belle su come trovare spunti narrativi, però io ancora non ce la faccio. Allora ascoltate il nano. E Nano mi dirà di copiare. E nel fondo, nel primo capitolo, Nano suggerisce almeno quattro modi di copiare. Perché puoi copiare uno stile, puoi copiare un ritmo, puoi copiare addirittura lo chiamiamo stampo per biscotti. Lo stampino, molte storie, se ci fate caso, hanno la stessa struttura. Da un film dei fratelli Coen a un epos come quello americo ci sono molte cose in comune. È uno stop in Star Wars è ricaricato su una saga come quella degli Argonauti. È uno stop in per gli stop, c'era sempre. È coppia la struttura, cambierai qualcosa. Vi faccio un esempio, forse vero. Una volta tanto è bello, ecco qua non avevamo solo fotocopie. Questo vuol dire molto. Allora, esercizio. Ecco qua. Dunque, sì, abbiamo detto, si può copiare un ritmo, uno stile, uno schema narrativo, una soluzione. Sono quattro modi che Nano suggerisce di copiare. Per esempio, lo schema narrativo. Allora, provo a raccontare questa storia. Cioè, siamo inventati io Gianluca davanti a un paio di birre, anche forse più di un paio. Il giovane scrittore se ne sta rintanato nel suo paesello di provincia. Il mio romanzo parlerà di un giovane scrittore di provincia, di cui è ambizioso un po' come quelli che abbiamo conosciuto in romanzi di Balzac. Ok? Finché non vede su YouTube l'intervista a una bellissima scrittrice milanese. Parte per Milano per conoscerla e conquistarla e sviluppare il proprio talento. Si batte nel famoso e anziano scrittore asmatico, una volta amante della narrativa pura, ma da tempo passato al lato oscuro della scrittura, che romanzoni da supermercato con sesso dozzinale e Michelangelo come investigatore. Avete capito che stampino sto usando? Adesso ve lo ripeto. Il giovane Sittese sta entrando nel suo paese provincia come Luke Skywalker all'inizio di Star Wars sta nel suo pianetino, finché un giorno viene raggiunto da un ologramma della principessa Leia, la seduce milanese su YouTube. Parte per Milano per conoscerla e conquistarla, sviluppare il proprio talento, la forza, si chiama così in Star Wars, e si imbatte in un famoso anziano scrittore asmatico, Darth Vader, quello che scrive, col mascherone. Una volta amante della narrativa pura, ma da tempo passato al lato oscuro della forza, appunto, adesso scrive romanzi di zinami. Più avanti, come nella saga di Star Wars, che sapete è un po' di sorpresa per il lettore, un po' di scelta, è questo giovane scrittore che chiamiamo Luca, che lo chiamiamo Luca come Luke, possiamo chiamarlo come Luke, si scopre che lo scrittore è suo padre, come stellare. Avete una trama che funziona benissimo. Secondo voi Lucas ci pente una, se avete copiato lo stampino di Star Wars? No, perché a sua volta lui l'ha copiato. Bravo. Questa è una storia che ritroviamo milioni di volte. Un signore che si chiama Campbell, che è un antropologo storico delle religioni, ha scritto un libro che si chiama Viaggio dell'eroe e ha ricostruito la struttura del Viaggio dell'eroe attraverso milioni di saghe, dai tempi del ripeto, dell'epoca sumeria, ma anche tra le saghe che si raccontano tra le origini, tra le tribù africane. Oppure, ad esempio, mi va a narrare la vita di una studentessa fuorisede da Bologna e ho in mente uno schema. Si comincia con una poverina che dopo aver sbagliato autobus il primo giorno a Bologna, è successo anche a me, sta vagando disperata per i giardini Margherita, famoso parco nel centro di Bologna, al tramonto, fino a che uno studente di nome Virgi non la conduce all'appartamento in cui abiterà, in via dell'Inferno. In ogni capitolo del mio libro questa si imbatterà in un piano dello studentato che guarda caso ha una trentina di piani, d'accordo? E in ogni piano, in una camera in particolare, troverà qualcosa di interessante, una coppia di lussuriosi che si chiama Paolo e Francesca, l'avaro padrone di casa, ad esempio in un altro appartamento, l'esploratore esplorerà il gigante Antero, a un certo punto uscito dallo studentato, questa potrebbe essere la torre dei desideri, la Pianisella. Cosa ha in testa? In testa l'inferno di Dante. Questa raccontata vicenda, che posso conoscere invece da vicino perché ho fatto uno studente fuori sede a Bologna, posso raccontare la vicenda di una studentessa bolognese. Ecco, questo è un modo di copiare, che non comporta nessun tipo di pericolo. E Dante ha copiato, in questo senso, bellissimo. Buona chiata allora. Non mi piace parlare troppo, mi fermo, perché sono già circa 35-40 minuti fa. Ecco, questa è l'idea, ce ne sono tante altre, il manuale è strutturato in questa maniera, il primo capitolo che tratta le nozioni di base, cose come queste che vi ho appena insegnato, il secondo capitolo parla del racconto, comincia a entrare nell'officina di quella che è la forma in apparenza più semplice, perché più breve, ma forse la più pura dal punto di vista narrativo, che è la short story, la storia breve, come si scrive una storia breve. Il terzo passa al romanzo, quindi una forma di narrazione un po' più lunga e complessa. E il quarto a editing, cioè come sistemare quel che è scritto. Con il nano che ci lascia infine sul finale con una serie di soldi tutti su come rivolgersi all'editore, perché anche rivolgersi all'editore, quando è mano il tuo romanzo, la tua serie di racconti, può avere il suo peso, la sua importanza. E dopo una serie di consigli di letture, noi ecco, pensando a un manuale scritto nel 2017 con quello che è il nostro gusto per la narrazione, abbiamo messo dentro di tutto, noi abbiamo fatto una bibliografia, non abbiamo detto dovete leggervi, che sarebbe altro. Giustissimo, Dario Corno, Segami, Ugo Cardinale, sono tutti personaggi autorevoli e validi ancora, oggi vanno letti se uno vuole capire come esprimersi in maniera corretta, come riuscire a essere chiaro in esposizione e via dicendo. Tutto utile, quelli sono utilissimi. Noi abbiamo detto, visto che si cita pacchi, cinema, serie televisivi, fumetti, graphic novel e via dicendo, mettiamo dentro anche questo. Di solito nei manuali di scrittura non c'è questa roba qua. Questa roba non c'è. Ed è vero che non è che nei manuali di scrittura di solito, quelli un po' più seri, non propongono fumetti come tipo di lettura. e invece ci sono i fumetti d'autore grandiosi. Uno dei citori, degli autori che citiamo di più si chiama Alan Moore, per esempio ha fatto un capolavoro che si chiama From Hell ed è un tipo di cronaca del nostro quinto metro. Ha preso il caso di Jack the Ripper, Jack lo squartatore, si è studiato tutto quello che si poteva studiare, infatti nel fumettone sono 500 pagine di fumetto, From Hell. Ci sono 100 pagine di fonte di bibliografia, non si è mai visto un fumetto con la bibliografia, e ti fa vedere tutte le fonti che ha consultato, per lui è andato a studiarsi, e poi ha lavorato la sua ipotesi, ha colmato la lacuna su chi sia Jack the Ripper, perché nessuno l'ha mai scoperto, hai capito? È uno dei casi storici risolti. Noi mettiamo dentro anche questa roba sul finale di chiusura, salutando il lettore, e questo è il libro. Se avete domande sono qua, anche in legge di Morozzi. Prego. Una domanda, volevo sapere ad esempio qualora uno volesse accingersi a scrivere una cosa che avesse natura diciamo anche autobiografica, però che volesse anche trattare qualche tema che riconoscibilmente potrebbe interessare altro, no? E è meglio utilizzare diciamo la prima persona diciamo oppure la terza, perché questo me lo sono sempre chiesto, io non ho mai letto romanzi troppo lunghi perché se vedo una roba grossa così io lo lascio lì, e quindi diciamo anche c'è questa cosa che volevo chiedere, se è vero che un romanzo un po' eccessivo diciamo un po' di ti toglie quella voglia di leggerlo, so solo io. No, la domanda è legittima, e qualsiasi persona che prova a scrivere a un certo punto se la pone, e che magari cominciamo a scrivere senza neanche farcela la domanda, e poi ci troviamo magari la metà racconto, la metà romanzo, e ci troviamo che quella voce a cui affidiamo il racconto, che abbiamo scelto spontaneamente, istintivamente all'inizio, ci va un po' stretta, non funziona più bene. Infatti una delle cose da ponderare bene prima di cominciare a scrivere, insieme al tempo verbale, quindi io feci o lui fece, oppure io faccio o lui fa, quindi prima o terza persona, al passato o al presente. Non esiste una risposta, esistono delle strategie e dei consigli. Di sicuro quando Tolkien ha pensato al Signore degli Anelli, se avesse scelto di raccontare tutto al tempo presente con io, si sarebbe diventato un pericolo. Perché quando scegli la terza persona con quel tipo di passato che chiamiamo epico narrativo, cioè fatto di imperfetto indicativo e passato remoto, quindi un tempo perfettivo e un tempo imperfettivo, quando insomma usi questa che è la consecuzione tempo indicativo, insomma metti insieme questi due tempi e puoi raccontare un po' quello che ti pare, lo usavano Virgilio, Venezia, eccetera, Orazio e altri. Tolkien, che era un filologo, che queste cose le sapeva bene, voleva raccontare un mondo dove c'erano popoli, razze, addirittura ogni popolo, persino ogni singolo personaggio, di popolo aveva una storia da raccontare, si muoveva in un continente che per noi era nuovo, inventato di San Piano. Ci voleva un narratore di tipo onnisciente che si spostasse liberamente nel tempo e nello spazio, e ci voleva un tono del racconto dato dal passato epico narrativo, da questa combinazione di tempo e passato, che evocasse l'idea di una saga fuori dal tempo. Si può fare un fantasy con un io e con un tempo presente? Assolutamente sì. Negli anni 70 ho trovato su una pantera, sono nato in 75, non l'ho trovato negli anni 70, però ho trovato cosa sarà stato un anno fa, in un paesino, anzi no, a Bologna, un mercatino dell'idolo usato, 5 libri di un tale di nome Robert Zelazny, conoscevo, ho letto dietro, era pubblicato per l'Urania Fantasy, roba degli anni 70, preso in mano, ho letto l'incipit e sono rimasto di sasso perché attaccato un io al presente, e poi ho sfogliato un po' di pagine, sono per vedere, pagina 50 continuava a tenere io e continuava a tenere il presente. Erano 5 volumi, visto che non sono andato a fare gli spoiler da solo, mi sarei fatto di male, sono andato a vedere in fondo, verso la fine del libro, ancora il quinto libro usava ancora il presente, e dico, wow, si può fare, si può raccontare una cosa del genere utilizzando un io e il tempo presente. Dipende tutto un po' da come ci si sente e da quello che si vuole raccontare. Se vuole raccontare il cinema di un investigatore, di un thriller, per su cui l'atmosfera è un po' cupa, un po', come posso dire, angosciante, opprimenti, dove si, in ogni ambiente che si esplora si sente il senso di minaccia, inconveniente. Allora lì raccontare le cose in prima persona e con il tempo presente può funzionare. Chandler, per esempio, faceva così, un grande del giallo poliziesco americano. Io penso sempre che si debba pensare a cosa si vuole raccontare e poi anche come ci si sente. Quando insegno i ragazzi, poi i ragazzi si massacrano da soli, usano, perché gliel'hanno insegnato così. Io insegno le superiori a Bologna con i moduli di scrittura creativa, sono corsi extracurriculari, hanno insegnato loro il passato remoto e non lo sanno usare. Non lo sanno usare, scrivono delle cose potentissime, ma sbagliate. Quello non è Paolo Nori che usa l'italiano della grammatica, e che proprio non lo sanno usare. Allora, dico sempre loro, ma non ti complicare la vita, sia al presente. Poi come possiamo sistemare? Un tempo sottovalutato che funziona da Dio, anche quando vuoi raccontare qualcosa di atmosfera thriller, è il trapassato prossimo. Che cos'è? Il trapassato prossimo del tipo. Immaginiamo un racconto. Quel giorno mi ero stancato di stare davanti alla televisione. Volevo a tutti i costi andare a cinema e guardare un film horror. Tutte le volte che mi recavo al cinema avevo l'abitudine di comprare il biglietto prima del popcorn. Quel giorno invece feci la cosa sbagliata. Ho usato il tempo perfettivo, il passato remoto, solo a questo punto. Questo crea attesa. Ho usato invece un tempo che lascia le cose in sospeso, che dà l'idea che io le faccia tutte le volte con una routine e che si dà con l'imperfetto indicativo di tagliare contro il passato prossimo. E ti dà un senso di attesa. E che quando arrivi proprio il tempo perfettivo. Non sia anche il tempo della fantasia, perché a volte anche i bambini piccoli spontaneamente, quando si inventano una storia o delle fantasie, dicono facciamo finta che sì. Io ero. È bellissimo. Scatta quel meccanismo di una dimensione anche temporale diversa, però c'è una continuità, come nel presente. Il tempo della fantasia, siete sembrato un po'. Un signore che si chiama Raymond Queneau, abbastanza famoso, uno dei miei autori preferiti, vero francese, che si divertiva con queste cose. Per esempio, cosa succederebbe se raccontassi tutto solo a un tempo? Lo fa anche Nori, è un pazzo. Spinoza, uno dei suoi romanzi più celebri, racconta tutto all'imperfetto indicativo. Solo che se racconti tutto rigorosamente all'imperfetto indicativo, non capisci mai cosa succede. Però fa la cronaca di una partita di calcio all'imperfetto indicativo. Funziona. I verbali dei carabinieri vanno all'imperfetto indicativo. Oppure scrive un romanzo che si chiama Pratica 9, tutto il futuro semplice. Fantastico. Usando il tu, altra figura strana, altra voce strana, tu puoi raccontare cosa con io o con una terza persona, ma ci serve il tu. Ci avrebbe pensato. Il tu è una forma strana di racconto e di voce del racconto. Tu quella mattina ti alzi, esci da casa e decidi di andare a fare colazione al bar di Milano. Ti sta raccontando. Il tu è un esercizio di voce narrante stranissimo, perché è addosso al protagonista come un io, ma allo stesso tempo è esterno, è subdolo, lo osservi. Infatti puoi ottenere degli effetti anche di sorpresa e niente male quando te li distacchi. Quando per esempio i pensieri del tuo protagonista non ti piacciono, comunque tu te ne puoi allontanare. Può servire anche per forse, come dire, medesimarsi di più? Assolutamente, ti medesimi di più e allo stesso tempo per il lettore servi meno autobiografico, quindi io lo consiglio fortemente. Come consiglio fortemente tra passato prossimo, che è un tipo di tempo che si snoba, ma negli scrittori americani, anche quelli di enorme successo, la Cornwell, la Harris, nei loro thriller lo usano sempre. Raymond Queneau, in uno dei suoi esercizi di stile, tradotti da Umberto Eco, fa vedere come lo stesso episodio, per esempio un episodio su un metro di Parigi, si è raccontato tutto all'imperfetto indicativo, cominciando a dare la sensazione che si stia raccontando un sogno, perché l'imperfetto indicativo è il tempo del sogno. tempo lo racconti. Pensateci, quando ti svegli la mattina e a tua moglie, a tuo fidanzato, che vuoi raccontare il sogno, ancora caldo che hai in testa. E niente, a un certo punto io scendevo dalla metropolitana, correndo dietro i lumi, come lo stai raccontando? Perfetto. Lo dici? Ho corso, sono sceso. Un significato indicativo, spontaneo. Non mi chiedete perché nella nostra testa funziona così cognitivamente. Era uno che non scrive, mi pareva che tutto intorno fosse brumoso e biancastro, tra presenze multiple e indistinte, tra le quali si stagliava tuttavia abbastanza netta la figura di un uomo giovane, il cui collo troppo lungo sembrava manifestamente, da solo, dare carattere vile e astioso. Il nastro del suo cappello era sostituito da una cordicella intrecciata. Poco dopo, ecco che discuteva con un individuo che intravedevo in modo impreciso e poi, come colto da subita paura, si gettava nell'ombra di un corridoio. Sta spiegando semplicemente che un tipo dentro la metropolitana sembra aver preso qualcosa dalla borsa per essere scappato. Raccontato nella forma di cronaca, di semplice racconto al passato prossimo, ha un effetto. Raccontato in questo modo un altro. Andrea De Carlo, uno dei suoi racconti più celebri, due di due, racconta tutto al passato prossimo. Ad esempio. Ci sono i tempi, io li chiamo così quelli strani, però a raccontare voi tutto il futuro semplice, come fa quel pazzo di nome in Vatica 9, usando il tu. Tu entrerai nel bar, ti siederai e chiederai alla tipa di sederti con lei. Infatti, la pensa e sembra, lo scrivete le guide, quando li vedete in piazza la Roma, sulla vostra sinistra troverete. E infatti, lei intende con Vatica 9 di scrivere una guida. Ora, queste domande semplici, ma fondamentali, quando si vuole scrivere qualcosa, devono trovare una risposta, anche pratica, a mio avviso, che è quella che deve dare spesso un editor quando si trova uno scrittore di fronte e che non so come andare avanti. A volte, cambiare la voce del racconto ti risolve il problema. Trucco banalissimo, stupido, ma che funziona sempre. Ti sei impantanato, a metà, non importa se è romanzo o racconto, non sai più come andare avanti. Scrivi una lettera. Scrivi una lettera. A uno dei protagonisti della storia. Spezza la linea del racconto e ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. A quel punto, quando sarai ritornato in te stesso perché il panico prende con un livello di 300 pagine e non sai più come andare avanti e fai delle cose terribili, a questo punto, dopo aver scritto quella lettera a qualcun altro, ti ha aiutato un attimino a uscire dal racconto pur restando nella materia del racconto. Ti si sbloccano le cose. Ci sono trucchi ancora più stupidi e sordi di quelli che affidiamo a che non devi dire questo. Domanda, secondo te, vorrei io già pubblicato, però la mia domanda è questa. Io ho passato uno stile che è il diario di viaggio, ma con motivi miei personali. Adesso voglio cambiare genere. Però mi è difficile trovare un modo alternativo, essere io ormai è un po' il mio cliché e quindi chiaramente tendo a ripercorrere un percorso già come dire, conosciuto e lavorato già in un certo modo. Quello che sentivo che dicevi tu è molto invece fantastico, invece io viaggio invece con io, prima persona, che viaggio di viaggio, ovviamente insieme ai miei viaggi e quindi ho uno stile standard. Il quinto libro che sto scrivendo è un altro stile per certe cose, sto iniziando un po', non dico a mettere insieme fantasticare eccetera, però ecco, quello che mi chiedo io, come si fa a uscire da uno schema, trovare una soluzione, a non essere sempre come dire ripetitivo, anche se non vorrei essere sempre scontata per il lettore. Allora, c'è già dall'inizio quando ho cominciato a parlare, allora secondo me, per esempio, già il passaggio dal guardare dentro al guardare fuori non è male, cioè provare a raccontare te stessa mediante qualcun altro non può essere così malaccio, perché è inevitabile. Se per esempio decidi di raccontare la vita di mia nonna, che conosco bene, finisce che in parte racconta anche la mia esperienza, dovrò selezionare chiaramente quelle parti della mia vita che hanno a che fare di più con la vita di mia nonna. È quello che ho fatto di mio Paolo Novi, che racconta come è diventato scrittore partendo dall'esperienza di mia nonna dall'infanzia di poi. Io credo che può essere già un modo per scattare il problema della distanza. Quindi creare distanza da proprio io non è facile. Il motivo è un salto nel buio. E che per chi è abituato a scrivere economia e a parlare di esperienza personale, quindi a guardare dentro, lo sconsiglio fortemente. Il passaggio potrebbe essere lavorare sul proprio io guardando fuori, raccontando la vita di qualcun altro. Perché siamo sempre immersi in un mondo di relazioni, di nostra vita a che fare con gli altri. Questo è un consiglio. E poi, per stilizzare, di sicuro può tornare utile usare tempi verbali e voci del racconto un po' diversi per tutti. Se hai voglia o un attimino di lavorare con un po' più di distacco e freddezza sulle esperienze del tuo libro, usare per tutti non è male. Ma si può anche pensare a un nome. Eugène Bastide, che ha vinto il premio Goncourt qualche anno fa, un autore francese di Niente Male, ha scritto tutto un romanzo con protagonista un noi, e solo alla fine capisci che è con noi. Niente Male, si può fare anche questo. Cambiare, io usavo lo pseudonimo, e a me è venuto bene questo flash per dire ok, cambio stile, cambio anche nome. Sì. Ha un senso? Sì, se per esempio il nome è una stimolata, però lo facciamo dire a Anna. I nomi sono importanti nelle nostre narrazioni. Lo so, Luca può essere un nome semplice, diretto, che piace a tutti, magari io in volte si chiama Luca e mi va di utilizzare per il mio romanzo. Se poi però nello stesso romanzo, nello stesso racconto, c'è un Lucio, c'è un Luciano, cacchio, cioè, ho poca fantasia, c'è rischio anche che a pagina 30 della testa del mio lettore non mi sia capato. Non dico che lo devi chiamare Sigismondo perché sia dissonante, però puoi intanto immaginare un Luca, un Antonio e un Giovanni, che tanto per cominciare almeno cominciare con le complete tendenze, tanto per cominciare. Lo pseudonimo può essere buono. Io lo pseudonimo per me come, sì. Sì, può essere importante, però attenzione, la cosa che consiglio sempre, se si lavora con un pseudonimo, è di caratterizzarlo anche al di là del nome. Per esempio, immaginatevi che il mio protagonista sia un mio alter ego, però io non voglio che assomigli troppo a me, anche fisicamente, esteticamente, non voglio parlare di carattere, non voglio nemmeno solo parlare di aspetto fisico. Però io sono alto 1,83, peso 78 kg e ho una voce che è in parte nasale e in parte baritonale bassa. Però cosa faccio? Mi chiamerò a Melotto, gli do lo pseudonimo. So che mia madre avrebbe voluto chiamarmi Marco, ok? Il Marco non mi dispiace, evoca McDowell, attori di Temani. Marco sarebbe il pseudonimo. Se penso a Marco, mi chiamerete Marco McDowell, l'attore di Arancia di Caglia. Non so perché mamma volesse chiamarmi come lui. Che occhi c'ha Marco McDowell? Di un grande azzurro, grandi bovini, ma azzurri. Mi metto addosso a me, basta anche solo questo particolare. E il mio alter ego, il pseudonimo, anche parlando di me, di quello che farà un altro nella vita, cambia profondamente. Oppure mi do la voce di Vasco Rossi. Posso essere corteggiato, mi do l'aspetto di Alberto Angelo con la voce di Vasco Rossi. Lo stimolerete troppo funzionare. Lo pseudonimo accompagniamo sempre una caratterizzazione del personaggio. Allora funziona di più. Anche per so, faceva sempre così. Mi piacerebbe fare delle domande un po' sulla struttura, come che caratteri magari usare per capire quando basta per poter fare già il primo libro, diciamo. Se uno adesso ha un tema che non è da poter allargare con fantasia perché sono verità. Lo so, è stato forse per questo. Quando si comincia a scrivere c'è sempre in mezzo alla verità. La verità è bella, giusta e rilombante, quindi non l'ho gestita. La struttura per la verità non c'è, bisogna darla secondo me con il regolo quella degli incontri, cioè provo a raccontare la mia vita per fastidio, che può essere un ricordo ovviamente quella della classifica. Altri autori che raccontano molto di vissuto, penso a Irving Welsh sui primi romanzi, Transporting, oppure anche Porno, perché non affidare il racconto della mia vita ad altri? Ma non è un guardare fuori, è una cosa ancora diversa. Io ho il mio migliore amico che si chiama Bagby e che è un tipo che tutto il tempo, cioè, ogni due parole dice cazzo, scusate, ogni due parole dice cazzo. Io magari ho studiato lettere, mi sono laureato su Rilke. Provate a immaginare la mia discussione, dissertazione della tesi di laurea a Bologna, raccontata da Bagby. Esempio, è già una struttura e questa funziona soprattutto per le forme brevi di racconto. Nel secondo capitolo, quello dedicato al racconto, abbiamo suggerito vari metodi per ottenere idee valide per sviluppare un racconto, strutture, questo è come dice il posto da tu, sì, dicevi tu. Il Rudy Welsh fa spesso questa cosa, c'è un racconto contenuto nella raccolta, adesso non ricordo, la raccolta si intitola Là dove finiscono i rifiuti in mare. Che cosa fa? Lui è partito da una situazione che conosce benissimo: dublinese, pub, birre, operai che si trovano nel dopo lavoro, commenti belli forti sulle partite del calcio e sulle donne che si vedono sulle riviste che magari possono essere messe lì sul bancone. Ok, ribattiamo la situazione. Ma ripetiamola, quindi non abbiamo più degli operai irlandesi usciti dal lavoro che commentano quanto è gnocca la Kim Basinger, la Kylie Minogue, ma abbiamo Kylie Minogue, Kim Basinger, Madonna e un'altra nella loro villa che guarda una rivista dove ci sono degli operai inglesi e parlano come operai inglesi commentando quello che vedono. È un ribattimento, è un'inversione divertentissima. Ad esempio, si può fare anche questo. Ce ne sono idee come queste che possono venire di inversione, Woody Allen. Anziché invertire lo stile, il modo di parlare, invertiamo le professioni, i mestieri. In un racconto geniale, se gli impressionisti fossero stati dentisti, si chiama così, lui prende lo stile di Van Gogh quando scrive il trattato. E sono lettere meravigliose, è pure letteratura viva, insomma, fa la letteratura senza saperlo, parla di sé, parla dei suoi tormenti, di fronte al giallo, che non è abbastanza giallo, dice cose meravigliose. Cosa fa la diario? Forse ne ho un pezzo. Forse ne ho un pezzo. Sul racconto. Si immagina che invece che essere dei pittori, questi impressionisti siano dei dentisti. E quindi invece di parlare dell'ossessione del giallo, parlo dell'ossessione del ponte, dell'impianto dei denti, con degli effetti straordinari. Condividere ansia, speculare su persone che conosco bene, metodo Gianni Rodani, ce ne sono tanti, adesso vediamo se trovo quello. Ma intendevo proprio anche con pagine, diciamo, il minimo di pagine per poter dire, o di, non so, magari anche di caratteri, di. Allora, un po' per avere un grosso modo un'idea di. Sì, l'editoria italiana è piuttosto tradizionalista e conservatrice, quindi facciamo i conti con l'editoria italiana, perché magari si narra in italiano, quindi ti considera l'editoria italiana. Per l'editoria italiana un romanzo non può avere meno di 150 pagine, non può avere meno di 150 pagine, se è un romanzo. Se è un racconto, non può essere più lungo di 80-90 pagine. Allora che c'è tutti i pagine che cos'è? Non te lo pubblica, è capace di dirti che non lo pubblica. Altro tabù dell'editoria italiana, se tu hai dei racconti bellissimi, geniali, non te li pubblica se sei uno scrittore esordiente. Se sei uno scrittore esordiente ti pubblica un romanzo. I racconti si fa fatica a vendere, si vendono solo se li hai scritti qualcuno di famoso. Altro problema. Allora il consiglio che diamo, che do io, dall'editore, è se hai un tot di racconti validi, che pensi che siano veramente validi, e non riesci a scrivere romanzo, non cestinare così tutta la carriera di scrittore, prova a serie di racconti, trova un filo conduttore. La mia idea sarebbe scrivere un libro praticamente su come fermare la grande sostituzione umana, e attraverso delle mie esperienze, e quindi è una cosa che andiamo a livello spirituale, e però appunto era proprio la mia idea di fare delle cose brevi, nel senso appunto massimo 80 pagine in poche parole, proprio perché sono cose molto da riflettere e potenti. Forse la forma della turispa, la forma breve, ultra breve, era più indicata. Più si va in profondità, diceva un poeta che mi piace molto, e più si è brevi. Secondo me, quando si devono dire cose con molta state, questo romanzo è la forma meno adatta per me. Io da romanzo mi aspetto, per esempio, che mi racconti una storia, che mi tenga lì, che mi faccia chiedere alle 3 di mattina che cavolo è successo al protagonista, per questa bene andare avanti. E mi ha detto che deve essere poi un romanzo d'avventura, un giallo, che può essere anche un romanzo introspettivo, però voglio sapere cosa succede al protagonista. Da un romanzo mi aspetto questo. Poi ci sono anche non romanzi, che magari penso a quelli di inizio Novecento, quelli di Proust, di Mann, sono ancora diversi, di Musi, per carità, poi per me i romanzi. Ecco, l'avete capito, noi partiamo da esempi più bassi. Se avessi, a me piace meglio, ma se avessi cercato di far scrivere, cominciare a far scrivere qualcuno con meglio, o mi piace Rilke, l'unico romanzo che ho scritto Rilke è difficilmente inciucciabile. Il problema di Malte Lavitz-Rilke, di Alfa, di Malte Lavitz-Rilke, sono un testo pesissimo, non lo consiglierei mai. Magari meglio come poeta per cominciare, è più narrativo, diciamo così. Il romanzo di Malte non è un romanzo, però non parto da lì, perché se no mi censuro, mi tacco gli altri, non ce la fate. Cominciamo da quello che vi ci è piaciuto, che abbiamo detto, ma non è così dozzinale, non è quella schifezza che si trova nell'edicola, cioè, è comunque un romanzo, quindi incorni, secondo me, con il metodo di portare dentro, per cominciare, un bel metodo. Quello di Nori, Le cose non sono le cose, come secondo metodo, è un romanzo abbordabile sia da leggere sia da copiare, se uno proprio volesse copiare. Nori ha fatto scuola, quindi i romanzi tantissimi lo vedo. Carver comincia ad essere tanto, però lo sospiego, si è asciutto. Poi che riesco a buttare giù un dialogo con Carlo, un'altra domanda, scusami, sì. Tu hai detto al computer, io non ho mai usato il computer, io ho sempre il vettore del punto, se così la penna, dopodiché ti scrivo, certo. Perché hai scritto invece di consiglio di usare il computer? Hai ragione. Ciascuno, hai ragione, diciamola così, ciascuno scriva nella maniera in cui riesce meglio, punto. Io mi trovo meglio a scrivere direttamente al computer, anch'io prendo vari appunti, e quello su Caravaggio l'ho scritto in treno, se Caravaggio sta scritto in treno non avevo mica possibilità sempre di avere con me il portatile, avevo quadernoni di appunti, adesso l'ho svuotato, di solito vivo un quaderno di appunti, mi seguo le cose a mantenere come una matita, poi le rilavoro, però per rielaborarle uso il computer, preferisco a quel punto io. Perché? Perché posso correggere, perché non mi si incasina troppo la pagina, se penso alle cancellature, tutto quello che dovrei fare, dopo un po', se fosse un foglio bianco, un foglio nero, sarebbe leggibile, fare fatica a ritrovarci il giorno dopo, invece sul computer correggo. Però guarda, ti dico, anch'io ancora, vecchia scuola, le prime cose, forse le frasi migliori, i concetti, li butto giù, a penna o a macchina, sul quaderno. Però cosa più istintiva. Continua così, senza problemi. A volte cambiare il colore dello schermo, cambiare il colore dello schermo. Tu puoi immaginare quanti scrittori cambiano il colore dello schermo e si sbloccano. Sì, a volte è stupidato di questo tipo. In una sezione che è quella delle editing, ci sono dei trucchi stupidi, ma che funzionano. Uno di questi l'abbiamo chiamato mira le ginocchia per colpire al cuore. Che è vero, quando te sei impantanato a un certo punto non sai più come andare avanti, ma prendi il personaggio più in su della tua storia, sempre in su quello che a pagina 3 del tuo romanzo ti sei anche dimenticato, era un personaggio secondario, era il barista che aveva servito il primo caffè al tuo protagonista Trieste. Parte, comincia a raccontare la giornata del barista. Non è detto che raccontandolo ti succeda qualcosa. Ti viene in mente di ritornare poi al tuo protagonista con qualcosa in più. Mira il ginocchio per colpire la porta, è una tecnica. Poi ci sono delle cose che si notano, per esempio Steinbeck, che è un grande, nel capitolo dedicato all'incipit su come cominciare, ci siamo trovati a ridere in almeno quattro romanzi. Steinbeck ha fatto la stessa identica maniera, scrivendo le pagine di Salinas, per 10-20 righe, a volte anche 10-20 fasi. Posso? Ma la stessa maniera, la stessa identica maniera, è Steinbeck. La valle dell'Edric, la valle del mio scontento, uomini di toppe, neanche breve, che sia quattro pagine per scrivere la valle di e si presenta la valle di San perché non la conosci bene, però è un altro modo, ma è avanti che scrive tutto il mio. A volte si svoltano anche i limiti, quando si comincia a leggere e a studiare la cosa dal punto di vista dello scrittore, e peraltro che sono grandi. Basta? A volte ci sono delle esperienze che vedo che vengono praticamente fatti dei romanzi per poterli trasmettere, ma non pensa che vada perso un po' quello che veramente si vorrebbe dare alla persona come esperienza che può aiutare a cambiare la vita? Ah, quindi nel caso in cui voglia fare quell'esperienza anche farlo diventare qualcosa che. Qualcosa di più. Esatto. Infatti, per questo bisogna distinguere. La narrazione non può contenere, secondo me, messaggi di questo tipo. Se arriva a darli, ben venga. Perché io cito sempre Stephen King. Cioè, partire con l'idea di scrivere un romanzo per dimostrare la tesi di fondo che il male è insito dell'uomo, è una cosa che la storia scrive, eppure. E il buon Stephen King, che non è da stessi, l'ha creduto, l'ha pensato a un certo punto della sua vita. Ti fa scrivere un brutto romanzo, perché è un romanzo a tesi. Okay. Stephen King scrive un romanzo che sono uno dei suoi capolavori, L'ombra dello scorpione, 1000 pagine, ci mette 10 anni per scriverlo, per arrivare alla versione definitiva, quindi c'è anche più veloce, ci mette 6 mesi, un anno al massimo. Perché? Perché si impantano a un certo punto, proprio su questa idea, arrivata a metà del romanzo, si accorge che quello che serve è positivo. La signora mia che si chiama Abigail, che ha un potere di magia bianca, a un certo punto deve fare una cosa brutta su un bambino, ma veramente brutta, e si blocca. Stephen King si blocca e dice come ho costruito una sorta di fantasy moderno con forze del bene contro le forze del male, adesso Abigail si sta comportando come Sauron, e però lì gli viene anche l'illuminazione e dice caro, probabilmente, come dice Fausto, e poi scomoda, ma non nel libro, nelle interviste, è quella, io sono quella parte che vuole veramente bene, ma fare male, o viceversa, si presenta così che ti stoppa da Fausto, no? Si accorge che forse è proprio così, cioè, per fare il bene ci vuole il male, per fare il male ci vuole anche del bene, e sarebbe un'idea potente, potentissima, profondissima. Però va avanti a questo punto, fa diventare di bene una sorta di negativo, addirittura di quello che era stato poco prima l'eroe negativo, il cattivone. Bene, arriva e lo chiude e dice, è un'idea bellissima, ma gli è venuta scrivendo, non l'ho avuta prima. Per Paolo Pasolini, quando scrive quel romanzo strano, bruttino, che si chiama Teorema, è consapevole del limite di un romanzo che si chiama Teorema. Perché hai in mente un'idea, è come si corrompe la borghesia se gli sposa il mio capitale, questa è l'idea di Pasolini, e lo fa in maniera tale che a un certo punto del romanzo si raffigura un teorema matematico, è arido. Mentre quando scrive Ragazzi di vita, una vita violenta, e non ha in mente nessun teorema, ma vuole semplicemente per i ragazzi del cinema, per la facoltà, c'è stato un momento, vuole scrivere una vita dei ragazzi di vita, è estremamente più bello, narrativamente. Io avrei scritto lo sapevo. Ma forse la narrazione ha effettivamente una forza diversa, no? Cioè noi nei romanzi riusciamo a cogliere anche delle soluzioni, se involontariamente, non è nell'intenzione dell'autore, però tu ti trovi un'analogia con delle situazioni in cui ti sei trovato e vedi che la storia si evolve in un'altra maniera. Non ho neanche pensato che nella mia vita potevo seguire un'altra via, un'altra, no? Questa è la forza, ovviamente. Sì, la forza della relazione ti sorprende, ma non solo quando leggi, anche quando scrivi. Ti accorgi che il tuo personaggio ti dice in quel momento che devi fare altro. E questo l'ha detto in tantissimi. Ti accorgi che il tuo personaggio in quel momento ti sta chiedendo di fare una cosa che tu non vorresti mai facessi. Sempre il signor Stephen King, a un certo punto, già dopo il quarto romanzo, erano degli animalisti americani che l'avevano attaccato in una presentazione di uno dei suoi libri a New York. Proprio contestando, dicendo: tu fai sempre morire i cani nei tuoi rapporti. Papà mi dice: io vivo nel Maine, ho tre cani e li adoro. Ma effettivamente i miei personaggi, spesso i cattivi, maltrattano i cani. Me lo chiede il personaggio per come l'ho costruito, fa quello, ed è una cosa bellante, però lo fa. Non lo farei mai. Non potete pensare che ci metta del mio in una cosa del genere. Questo non è vero. Ecco perché è anche stupido dire si scrive solo di quello che conosciamo. Nel King tutte le volte bastano cani, no? Non mi dico questo. Anzi.